Linee d'ombra di Matteo Caccia. Io ho sempre avuto questa passione che ho tuttora per il sacro e per il profano, e quest'album degli Enigma rappresentava un po' per me questa passione. Lei mi sta facendo fare una figuraccia davanti a tutte queste persone. Se non ho rubato nulla, mi prendo una cassetta senza pagarla. Storie di musicassette e di ingiuste accuse in una puntata che si intitola Ingiustamente. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Banzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. È lunedì, buongiorno a tutti, come state? Vi spero bene, vi spero al sicuro, vi spero con il morale alto, e se per caso invece la salute è così così, vi auguro una pronta guarigione. È l'ennesimo lunedì piuttosto simile agli altri di queste ultime settimane e di questi ultimi mesi. Noi continuiamo a fare quello che facciamo, a raccontarvi storie. Lo facciamo grazie al vostro aiuto, grazie al vostro supporto. linee d'ombra@radio24.it. Prendiamo le vostre storie, ci costruiamo intorno a una piccola impalcatura e ogni giorno vi raccontiamo le storie che hanno a che fare con un confine, con una linea d'ombra che avete in qualche modo valicato. L'abbiamo aperto questa puntata con questo monologo straordinario di Gianmaria Volonté, che è tratto ovviamente dal film Sacco e Vanzetti, un film di diversi anni fa che raccontava la storia proprio di questi due italiani anarchici, uno pugliese, se non ricordo male, Sacco, e Vanzetti invece, come avete sentito dall'accento forzato anche di Gianmaria Volonté, invece piemontese, di Villa Falletto, che è in provincia di Cuneo, un paesino nella provincia di Cuneo. La storia di Bartolomeo Vanzetti e di Nicola Sacco ci dice moltissimo dell'ingiustizia, cioè parla moltissimo di ingiustizia. Questi sono due italiani che sono stati giustiziati nel 1927 tra le altre cose semplicemente perché erano italiani, perché erano stranieri, perché erano visti come quelli che arrivavano a portare via il lavoro agli americani. Solo diversi anni dopo, oltre 50 anni dopo, anzi 50 anni esatti, il 23 agosto del 77, l'allora governatore del Massachusetts, che era Michael Dukakis, riconobbe ufficialmente gli errori commessi in quel processo, cioè disse in sostanza: abbiamo sbagliato, quei due erano innocenti, li abbiamo uccisi ingiustamente, e riabilitò completamente la loro memoria. Ecco, abbiamo aperto con questa storia, con questo piccolo stralcio, perché la puntata di oggi parla di questo, parla di ingiustizie, parla di tutte quelle cose che succedono, che valicano quella linea invisibile tra quello che è giusto e ingiusto, anche se noi siamo da questa parte qua, siamo dalla parte del giusto. Entrambe le storie di oggi ci racconteranno quello. Non so se vi è successo di recente il concetto di giustezza o di giustizia e di ingiustizia o di sbagliato dall'altra parte è molto sottile, è spesso e volentieri è relativo, perché una cosa che è giusta per noi può essere ingiusta per qualcun altro, no? Ha a che fare con l'etica, con la morale, la quale ovviamente noi non ci addentriamo, raccontiamo storie e ci fermiamo lì. C'è però qualcosa che detta quel confine, ed è la legge. E la legge ci impedisce di avere una nostra idea della giustizia o dell'ingiustizia. La legge dice che cosa è giusto e che cosa è ingiusto. La legge è fallace, purtroppo, lo abbiamo scoperto. Il caso di Sacco e Vanzetti è uno, ma ce ne sono migliaia e migliaia, ahimè, di casi di ingiustizie giuridiche, oltre che di ingiustizie sociali, ma quello è un altro tema ancora. E le storie di oggi ci raccontano quel piccolo confine lì, solo che la prima, quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Gianfranco, è un confine molto, molto labile e che lui riesce a, come dire, a marcare con grande capacità, anche con una grande capacità dialettica. La seconda storia invece parla di uno di quei temi che sono molto delicati, soprattutto in questo periodo, soprattutto in un momento in cui la sessualità continua, anche se sembra di no, continua ad essere un tabù in qualche modo, e in qualche caso la sessualità e l'omosessualità. Quindi la seconda storia che vi racconteremo oggi arriva direttamente dagli Stati Uniti, era una lunga storia del New York Times Magazine che racconta di quel confine molto sottile che è la molestia sessuale, per cui una donna viene accusata di una cosa che evidentemente non ha fatto, ma il tema è come faremo a dimostrare che non è così. Un bel pacchetto di storie per portarvi un pochettino fuori dalle mura della vostra casa, oppure se invece siete fuori perché state lavorando o avete altre questioni in ballo che magari vi distrae un pochettino dalla situazione che state vivendo. Se siete in diretta, benvenuti. Se invece siete all'alba con la replica dell'alba, benvenuti anche voi. Spero che sia una buona giornata per voi. Se siete in podcast, quindi in qualunque momento della giornata, semplicemente godetevi le storie. Benvenuti a Linee d'Ombra. Il prete dell'oratorio balbettava e dondolava sui piedi durante la preghiera obbligatoria delle 16 al centro del campo di calcio. Era un uomo buono, Don Gigi. Poco prima mi aveva dato una grossa lavata di capo esistenziale che avevo accolto come un attestato di stima. «Tu pecchi del peccato di Lucifero», mi disse. «Sei arrogante ed orgoglioso. Hai la stoffa del leader, ma non te ne frega niente». E neppure immaginava quanto quelle parole nutrissero la mia superbia di ex chierichetto ormai sedicenne, quello cui era sempre stato proibito usare il turibolo per spargere incenso e usava l'altare come un palcoscenico per ostentare un'aura mistica. Ma ero disorientato quanto ogni adolescente, bizzarro, sono sempre stato un po' bizzarro. I miei professori dicevano che sembravo un cartone animato, un po' per l'abbigliamento, andavo in giro con un vecchio Loden, avevo i capelli lunghi ma rasati sotto come andava a quei tempi, e quindi avevo la testa che sembrava appunto un enorme cappello alla Davy Crockett. C'era persino un professore che mi chiamava Garofano o Verza. Aveva ragione. Era vero che non me ne fregava niente e che amavo usare il carisma di cui parlava solo per un po' di teatro e scherzi idioti, ma non glielo dissi. Sorrisi con la tipica faccia da schiaffi da bambino cattivo che uso ancora oggi. E imbracciati dadi e martello, per me niente spade, il mio personaggio era un chierico che non usava armi da taglio, e appunto imbracciati dadi e martello, tornai ad ammazzare orchi nel diabolico mondo dei giochi di ruolo con la mia combriccola. Conclusa la preghiera, in quel pigro sabato pomeriggio d'inverno, lasciammo l'oratorio per un po' di struscio nel corso. Erano i primi anni 90 ed ero l'unico a non possedere uno stereo con CD. Quindi, musica a 7. Il mio amore per il sacro e il profano mi spinse a mettermi alla ricerca del primo album degli Enigma. Con quella canzone sospirata con l'accento francese, assediata dal canto austero di accaldati monaci desiderosi di esorcizzarla. Così, nella consueta tenuta Trasandark, abiti neri sdruciti da lavatrice ma nulla di metallaro e una pettinatura con una grossa coda sulla nuca che rassomigliava al cappello in procione di David Crockett, mi avvicinai alla bancarella della musica che stava sotto i portici. Le mani sprofondate nel sacco della spazzatura, la chiamavamo così, una mia giacca nera plasticosissima, cominciai a cercare con gli occhi l'oggetto del mio desiderio, tra tutte quelle minuscole copertine. E lì l'accusa del venditore arrivò improvvisa. «Ehi tu, fammi vedere cosa hai messo in tasca», mi disse. Anni prima ero stato beccato per un furtarello di caramelle con amici in un supermercato e tale fu l'umiliazione che io mi ripromisi che mai più, e infatti era andata proprio così. Non ricordo di essere neppure arrossito per quell'offesa fatta dal venditore ambulante, quando dalle mie labbra strette affiorò arrogante quel lucifero di cui parlava il don. «Lei mi sta facendo fare una figuraccia davanti a tutte queste persone», gli dissi. «Se non ho rubato nulla, io mi prendo una cassetta senza pagarla». Mi sono stupito anch'io ricordando quell'evento, perché mi sono detto «Madonna, una prontezza così che forse oggi non avrei». Credo sia stato un moto d'orgoglio. Sono ancora oggi uno un po' fumino in certi contesti. Sono sempre pronto a chiedere scusa. Sono un curioso, quindi so anche quando non so, quindi riconosco che altri sappiano più di me. Però poi quando mi impunto, sono un ariete, proprio fatto e finito. Il negoziante, che poteva avere tre volte la mia età, fu talmente stupito da annuire incredulo. Quando mi avvicinai, mi controllò le tasche, vuote, se non per qualche fazzoletto smoccolato, e gli mostrai compiaciuto l'interno delle maniche, piene di braccia ma nessuna refurtiva. Mi fece un cenno col mento verso la bancarella, voltandosi senza neppure guardare cosa scegliessi. Arraffai la cosa più vicina ad un album degli Enigma, andandomene poi velocemente, fiero e frastornato. Nelle tasche della discordia un album di canti gregoriani da ben 15.000 lire. Monaci, duri e puri, niente sottofondi pop né suadenti diavolesse, 75 minuti di preti gorgheggianti che ascoltai tre volte in tutto e mai per intero, perché il diavolo fa le pentole e la musica migliore. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Tank held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens tender cades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Get down in it. Si intitola ingiustamente la puntata di oggi di Linee d'Ombra, e un pochettino il motivo l'avete capito, perché si tratta di accuse che arrivano fatte in maniera ingiusta, che arrivano così anche da persone che probabilmente le azzardano, e anche la prossima storia racconterà come ha fatto questa, una storia che ha a che fare proprio con questo argomento. Ma noi partiamo sempre dalla storia di un ascoltatore, e in questo caso il nostro ascoltatore è Gianfranco. Punto, ciao Gianfranco, buongiorno. Buongiorno Matteo. Senti, come stai in questo periodo complicato per tutti? Ma campiamo, poi io sto bene a casa, nel senso che non sono un solitario, però mi piace, quindi stiamo facendo tutta spesa a domicilio, abbiamo il giardino, siamo dei privilegiati, quindi ho due figli, un cagnolino e abbiamo un balcone vista mare, cui anche lo spazio ti dà respiro, e la campagna alle spalle, quindi siamo fortunati. Dove vivi esattamente? A Pineto sul mare, in Abruzzo. Ah, giusto, wow. Sì, la prima collina, quindi... E ricordami, cosa fai di lavoro invece? Io faccio l'educatore professionale con ragazzi con disabilità. Ah, ok. E quindi in questo caso cosa state facendo? Li state aiutando da casa? State trovando un modo? Adesso sì, facciamo un po' di supporto telefonico, videochiamate con WhatsApp, stiamo approntando delle piccoli laboratori in videoconferenza e un Padlet, lo usiamo come un blog dove ogni operatore pubblica delle cosette per col fine dell'intrattenimento e di mantenere la relazione. Ok, quindi insomma riuscite in qualche modo a mantenere viva la relazione con loro. Sì, perlomeno la vicinanza affettiva per quello che può essere. Immagino, perché che... capirai, viviamo insieme quotidianamente, quindi è uno strappo. Immagino, quindi vi mancate reciprocamente. Sì, è vero, sì. Senti, invece la storia che ci hai raccontato risale a ormai più di 20 anni fa, sicuro? Beh, io ne ho 42, okay. Ne ho 42, quindi parliamo di 25 anni fa, buoni, abbondanti. E su che bancarelle ti trovavi? Cioè, dove si trovava? In che città si trovava questo? Ai tempi vivevo a Brescia, e praticamente in Piazza Vittoria c'era questa bancarella di musica 7 e CD. Per cui io poi ero l'unico degli amici a non avere un lettore CD, quindi andavo a musicassette. Senti, tu eri, diciamo, particolarmente sicuro di te? Eri un ragazzo particolarmente sicuro di sé, oppure è stato un caso quell'occasione? Allora, tutti mi dicono che sono un po' irruento, io lo imputo sempre al fatto di essere un ariete, però in realtà sono anche, è una scusa, certo. Sono anche uno tutti che usano, sono un curioso dell'astrologia quando devono pararsi le spalle da qualcosa, ma non sono della bilancia, non... sai come sono la Vergine. Non mi spingo fino all'ascendente, manteniamo solo il segno, un po' di parvenza, e quindi insomma, esatto, poi a me piace sapere, sono un curioso, quindi quando so una cosa lo faccio presente, quando non la so mi piace che mi venga spiegata, e quindi da quel punto di vista non sono un saccente, almeno, anche se qualcuno dice pure quello, quindi insomma dai, sono... Senti, ovviamente... sono un arrogante consapevole. Ovviamente quel signore della bancarella non abbiamo notizie, non sappiamo che fine abbia fatto. No, assolutamente, non c'era alcuna relazione, magari mi avrà visto 2 o 3 volte, ma ero uno dei tanti adolescentelli che passavano di lì. Senti, e la musicassetta, ricordami che musica era, gli Enigma? Era sì, era, adesso aveva il titolo in latino, in numeri romani, era la data di uscita dell'album, manco me lo ricordo, periodo, però era il primo album degli Enigma. Periodo in cui, e tra l'altro appunto Luca Micheli ce n'ha appena fatta sentire un pezzo, in cui gli Enigma andavano fortissimo, andavano alla gara. Curioso, c'era un po' di sì, c'è un po' di esoterismo, esatto, un po' di Gianfranco, prima di salutarti, parlando di film, io so, e ne ho visto anche uno, so che tu con i ragazzi della vostra comunità, si chiama? No, è un servizio diurno, sono due servizi diurni, uno a stampo più sociale, l'altro a stampo più riabilitativo. Ok, quindi con le persone, perché si tende a usare questo? Io ho fatto il servizio civile e si dice sempre ragazzi, non è che perché hanno delle disabilità che non invecchiano, invecchiano. Io stavo con delle persone di 50-60 anni, quindi chiamarli ragazzi ogni tanto mi faceva ridere. Comunque dicevo, lo persone, faccio anch'io, lo so, è una cosa, lo faccio anch'io, ci lavoro 22 anni e lavoro con gente di 60, ma credo che sia per affetto, ovviamente, però fa sempre strano. Ragazzi, poi vedi questi crostoni di 65 anni e dici, forse chiamarlo ragazzo è un po' fuori luogo. Comunque me lo ricordo appunto, l'avevo fatto quell'anno bellissimo in una cooperativa lavorativa con ragazzi con diverse disabilità ed è uno dei ricordi più vivi che ho nella mia vita. E voi avete fatto un paio di cortometraggi, per cui invito gli ascoltatori, se non vogliono andare a vederli, quello che ho visto io si chiama Il Peperone Bizzarro, che ha concorso anche a un festival del cinema nuovo di Gorgonzola, e quindi se avete voglia di andare a vedere quello che fa Gianfranco con i suoi ragazzi, chiamiamoli così, lo trovate su YouTube. Gianfranco, io ti ringrazio molto per la chiacchierata, per la storia, e saluta i ragazzi e in bocca al lupo per tutto. Sarà fatto, a grazie presto. Matteo, grazie a te, un abbraccio. La puntata di oggi si intitola Ingiustamente. Non so quanti di voi siano stati ingiustamente accusati di avere fatto o di non avere fatto qualcosa. Se avete voglia di condividerlo con noi, lineadombra@radio24.it, lì il confine, davvero, la linea d'ombra spesso è molto sottile e in casi come questo è verificabile, perché appunto il venditore può controllare all'interno di questo sacco dell'immondizia, come lui stesso lo chiama, come Gianfranco lo chiama, questo giaccone che indossa, e verificare appunto che non ha rubato niente. Però ad esempio in famiglia, in particolar modo tra fratelli, sono tantissime le situazioni in cui è stato lui, no è stato lui, no è colpa mia, no è colpa sua, e il genitore a un certo punto, è capitato a tutti, come figli, come genitori immagino, a un certo punto prende una decisione e si scaglia contro uno anche se quello magari non ha fatto niente. Tant'è, si intitola Ingiustamente perché raccontiamo storie che hanno a che fare esattamente con questo tema anche oggi, e subito dopo le borse ne ascoltiamo un'altra che invece arriva dagli Stati Uniti e parla di un'accusa che è molto più ingiusta ed è molto più terribile rispetto a quella che viene fatta a Gianfranco, rispetto a quella che vengono fatte tra fratelli. È un'accusa che riguarda quello che negli Stati Uniti chiamano harassment, cioè la violazione dei diritti e di legati alla sessualità, ma soprattutto la possibilità di sfruttare un ruolo di potere, che in questo caso è un ruolo di un docente universitario, nei confronti dei propri allievi. E negli Stati Uniti è una cosa molto molto seria. Ora ci ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Dopo la storia di un ragazzo che viene ingiustamente accusato di essersi intascato una cassetta, ora raccontiamo un'altra storia che arriva dagli Stati Uniti e che si trova al confine tra la luce e l'ombra, che è l'ombra più cupa, però. È la storia di Sara e della sua compagna, che si chiama Marta, che insegna all'università e un giorno, dal nulla, viene accusata di avere molestato una sua allieva. State con noi. Eravamo alla festa di laurea di un mio amico. Era un venerdì sera di fine marzo. Avevo un bicchiere di vino in una mano e nostro figlio nell'altra, quando Marta mi ha trovato e mi ha detto: «Ho ricevuto un'email davvero strana». La luna era piena sopra le nostre teste e tutti noi eravamo a godercela, in maniche corte, con in mano birre o vino e leccandoci via dalle dita quello che rimaneva del barbecue, mentre i nostri figli giocavano a nascondino, al buio. «Come hai detto?» le ho chiesto. «Ho ricevuto un'email in cui qualcuno sostiene che io abbia molestato sessualmente degli studenti», mi ha risposto Marta. «Come?» ho detto più forte però questa volta. «Non ti preoccupare, probabilmente è spam», mi ha detto, e poi è scomparsa. Quella notte Marta ed io a letto abbiamo tirato fuori i nostri telefoni per rileggere quella mail che aveva ricevuto. Il mittente anonimo voleva farle sapere che qualcuno stava scrivendo su di lei sulla bacheca di Reddit, che è un social network molto usato negli Stati Uniti. L'email includeva uno screenshot del primo post, che proveniva da una persona che dichiarava di essere stata parte di un caso di molestie sessuali contro Marta. Se anche tu, come me, sei stata molestata da questa professoressa, contatta via posta elettronica l'ufficio relazioni con il pubblico della Arizona State University, l'università in cui sia io sia Marta lavoravamo. A quel punto mi sono voltata a guardarla. Lei stava fissando il suo telefono. Ho allungato la mano per toccare la sua e le ho detto: questo non è spam. I primi due post di Reddit su Marta sono stati rapidamente cancellati, ma ho continuato a controllare il sito per tutto il fine settimana. Un altro è stato postato il sabato e un altro il lunedì mattina. Il primo si lamentava che i post precedenti fossero stati proprio cancellati. Il suo autore aveva scritto: anche le professoresse lesbiche sono capaci di molestare gli studenti nonostante i racconti che si fanno su di loro. Ma è stato il secondo post che mi ha spaventato. Diceva così: ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio. La mia professoressa di linguistica mi ha offerto più volte del vino nel suo ufficio e si è comportata in modo inappropriato quando l'ho vista in diversi locali omosessuali della città. Il fatto che questo post parlasse del vino e dell'ufficio di Marta ha rafforzato quello che io già sentivo di sapere, che le accuse erano false. Marta non usava mai il suo ufficio, incontrava gli studenti nei caffè, via Zoom, online, raramente beveva vino e tantomeno frequentava locali gay. Dopo due giorni, Marta è stata ufficialmente messa sotto osservazione da parte dell'università per comportamenti sessuali scorretti. Everywhere I go, I'm hearing something. Baby, stop making things out of nothing. Am I the one to blame? 3 years, you're still the same. I talk, so nothing has changed. I had a girl, you call me rude. I did it for us, I did it for you. On it below, I on the booze. Trying to get close, you tell me to move. Oh, tell me, do you wanna stop before I get up to the top? Click up, I'll just take your shot. I won't wait, I've had enough. Yeah, 2 a.m. my mind's on us. All my friends out to the club. Saw you there, they said you're numb, numb to the pain. Oh, how you change. Not about the girls, not about the fame. Blowing the clouds, tonight it will rain. You having fun, this isn't a game. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Double up, your love is not enough. Thank you for your accusation. Qualche settimana prima che tutto accadesse, io avevo ricevuto una proposta di lavoro dall'Università del Michigan per avere vinto un concorso. Un paio di settimane dopo, un mio conoscente, che chiamerò Jay, anche se non è la sua vera iniziale, mi ha contattato per sapere se avevo intenzione di accettare o meno quel lavoro. Io sapevo tramite amici che anche lui era stato finalista di quel concorso, ma l'aveva perso, e nei suoi messaggi raccontava la stranezza di questa situazione. Sosteneva infatti di essere infelice dove viveva, una città conservatrice, diceva, in cui è difficile essere apertamente gay. E lasciava intendere che se io avessi rifiutato il lavoro, quel lavoro sarebbe stato offerto a lui. Non rispondere, mi disse Marta, non dovrebbe contattarti, non dovrebbe scriverti email come queste. Io invece ho risposto al messaggio di Jay. Ho detto che volevo accettare il lavoro, ma aspettavamo di sapere se anche a mia moglie Marta sarebbe stata fatta un'offerta o una proposta di lavoro, essendo mia coniuge, nella stessa università. Ho promesso di farglielo sapere non appena avessi avuto altre notizie. Assolutamente, mi rispose. Mi sembra sensato, grazie mille. Dopo qualche tempo, però, lui ha continuato a mandarmi messaggi. Si è congratulato con me per essere stata finalista per il premio di un libro e ha detto che sperava che le trattative con il Michigan andassero a buon fine. Qualche novità? Scrisse dopo un paio di settimane. Ti prometto che te lo dirò, ho risposto, quando decideremo in un modo o nell'altro. Ciao. Grazie per essere stata così gentile, mi rispose lui. Poi, un venerdì sera, verso la fine di marzo, mi scrisse così: perché mi state facendo questo? È stata quella la notte in cui furono postati i primi post contro Marta su Reddit. Quando io ho rimesso insieme tutti i pezzi, sono andata dalla mia compagna e le ho detto: deve essere lui, per forza. Questo tizio sperava che infangando mia moglie anche io finissi nel fango e, impegnandomi nella difesa legale con lei, rinunciassi all'offerta di lavoro in Michigan. Intanto i post sui social continuavano a sostenere che Marta avesse organizzato feste con le sue studentesse, in cui aveva proposto loro di trascorrere la notte con lei, in alcuni casi presentandosi addirittura a seno nudo a cena. Un ispettore dell'università ci convocava ogni settimana, comunicandoci tutte le nuove testimonianze anonime che arrivavano alla segreteria da indirizzi mail diversi. Le investigazioni sono durate mesi. Poi, l'ultimo fine settimana di aprile, abbiamo pianificato di andare di nuovo in montagna in campeggio. In macchina, quel venerdì sera, ho controllato la mia email dal mio telefono e ho visto che l'università ci aveva scritto alle 16:58. Ho letto l'email ad alta voce a Marta, mentre guidava. L'indagine su me e lei, fatta dall'università all'interno della facoltà, non aveva trovato alcuna prova credibile di una violazione delle regole tra docenti e allievi. I due soggetti indicati, diceva, si sono rivelati entrambi molto apprezzati nei loro rispettivi dipartimenti ed entrambe hanno ricevuto molti elogi e apprezzamento nelle valutazioni dei loro corsi da parte degli studenti, concludeva la lettera. Entrambi hanno fugato tutte le accuse contro di loro. E, due giorni dopo, mentre arrotolavamo i sacchi a pelo e piegavamo la tenda per tornare a casa, ho ricevuto la lettera di offerta ufficiale dal Michigan. 2 mesi e mezzo dopo la telefonata che mi diceva che avevo il lavoro. Ci hanno anche scritto che la ricerca di lavoro per Marta da parte loro era cominciata. E quindi io dissi: è finita, dissi a Marta. No, mi rispose lei, non è ancora finita. C'è una causa contro il tizio che ha gettato ingiustamente fango su di noi. Ma almeno ora ne siamo fuori. Questa storia era una storia che faceva parte di un long form, cioè di un articolo molto molto lungo, di fatto una sorta di quasi di romanzo breve, una storia molto lunga, molto complessa, che è stata raccontata proprio da Sarah Viren, che è l'autrice di questa storia, della compagna di Marta. Sono entrambe protagoniste di questa storia che hanno vissuto un anno fa, grosso modo. L'hanno raccontata su New York Times Magazine, se avete voglia di trovare, la trovate facilmente, si intitola The Accusation Were Lies, But Could We Prove It? Cioè le accuse erano menzogne, ma potevamo provarlo. Trovate delle foto di entrambe le protagoniste della storia e trovate ovviamente tutti quanti i dettagli relativi. Noi cerchiamo di condensarle per darvi una storia da ascoltare in radio in maniera plausibile. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare i vostri diari dalla quarantena. E il diario che vi raccontiamo oggi è una storia che mi è piaciuta molto perché arriva letteralmente dall'altro capo del mondo, arriva da un'italiana in Australia. Tra pochi Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it.

Francesco lavora per una società di ingegneria che ha sede anche a Milano e va e viene da Milano molto spesso, oppure molti suoi colleghi di Milano vengono a Firenze per incontrarsi per lavoro. E negli stessi giorni in cui a lui sale la febbre, altri della sua equipe si ammalano. Abbiamo ipotizzato subito che potesse essere il coronavirus, ma senza averne la certezza. E quindi niente, io prima ho avuto l'influenza per conto mio e poi non ho fatto in tempo a guarire di quella e lui si è ammalato all'inizio di marzo, i primi di marzo, e dopo pochi giorni febbre altissima e stava male e poi dopo pochi giorni mi sono ammalata anch'io, stessi sintomi, mal di gola, tosse, insomma le cose, i sintomi standard che si riferisce sempre con questo virus. E grazie mille davvero, grazie mille a Irene per la sua storia. Noi di solito quando raccontiamo le storie seriali raccontiamo storie che hanno in mezzo un po' di tempo, cioè hanno lasciato la possibilità ai protagonisti di viverle, di uscirne, di elaborarle, di capirle. Pensate, non ultima la storia di Anna Maria. E in questo caso invece è successo tutto molto in fretta. La storia, come potete immaginare, risale a poche settimane fa. E quindi a maggior ragione, grazie Irene per averci dato la possibilità di raccontarla e di raccontarla così nel dettaglio. Questo è solo l'inizio. Le prossime puntate andranno ancora più a fondo e racconteranno alcune realtà che già noi conosciamo attraverso i telegiornali, attraverso i giornali radio, attraverso il web, ma che appunto hanno il solito punto di vista che noi utilizziamo, che è quello personale del racconto. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questa puntata, questo programma: Mauro Pescio, grazie ad Anita Panizza, grazie a Paolo Corleoni, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie a voi che continuate a mandarci tutte le vostre storie. Linee d'ombra @radio24.it. Noi siamo qua tutti i giorni alle 15 da lunedì al venerdì perché crediamo che raccontare storie non solo ci aiuti a capire meglio le cose, ma ci aiuti anche a portarci un pochettino più lontano dalle nostre quattro mura di casa. E quando potremo uscire le storie, primo torneremo a viverle, secondo potremo anche portarcele dietro. Ci sentiamo domani, ora lì nel GR, noi ci sentiamo domani per raccontare storie, solito, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!